io credo che siamo ai giacobini, nel senso che quello che sta emergendo da questa inchiesta è un quadro, si può anche definire disdicevole, ridicolo, imbarazzante, che usiamo pure tutti gli aggettivi, però qui c'è in gioco la libertà della politica di fare la politica. Poi se i politici fanno bene o male la politica sarà anche un fatto dei politici che non deve riguardare la magistratura. Voglio dire, aprire un'inchiesta su una presunta società segreta e poi scoprire che questa società segreta che cosa fa? Si trova in luoghi, in case private, ma non, come dire, incappucciata e con riti strani, ma a parlare di cose da fare, si trova in ristoranti pubblici dove viene fotografata come se fossero dei latitanti super ricercati, a parlare di cosa? A parlare di fatti e a cercare di modificare i fatti. Ecco, io credo che la politica abbia il diritto dovere di cercare di intervenire sulle cose da fare e quindi anche ha il diritto di decidere di cercare di fare l'energia eolica in Sardegna piuttosto che in Sicilia, piuttosto che in Emilia Romagna. Dove la politica, dove tutto questo diventa reato? Dove è dimostrato che per fare quello che la politica vuole fare vengono corrotte delle persone, ci si fa corrompere, vengono usate insomma cose che poco hanno a che fare con la democrazia e con le leggi vigenti. Ma il diritto di politici di incontrare lobbisti, consulenti, personaggi, financo magistrati e discutere delle cose da fare, credo che è un diritto che la politica deve rivendicare.